Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Che cosa fa? Si fermi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo. E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo. Questo è un luogo pubblico, la gente ha diritto di essere lasciata in pace. Non è colpa mia se non c'è pace. Molte ragazze mi pagherebbero per una foto, lo sa? Anch'io la pago. Io costo caro. E ci sono altre cose che mi servono qui dentro. Allora che facciamo? Le mando le fotografie. No, le voglio adesso. Cosa potrà essere contenuto di così importante in un rullino fotografico da suscitare tanta apprensione in Vanessa Redgrave, protagonista di Blow Up di Michelangelo Antonioni? È proprio intorno a questo mistero che è costruito l'intero film. Blow Up racconta la vicenda di un giovane fotografo londinese di moda, convinto di scoprire, per caso, gli inequivocabili segni di un delitto ingrandendo alcuni scatti rubati un pomeriggio in un parco. La persistenza e la forza dell'immagine fotografica, naturalmente, permeano tutta la pellicola. D'altronde, in fotografia come al cinema, pur sempre di pellicola si tratta, almeno fino all'avvento del digitale e delle sue nuove, strabilianti possibilità. Se il fotografo austriaco Ernst Haas crede che non bisognerebbe mai giudicare un professionista dal tipo di supporto che usa, ma solo dal modo in cui lo usa, non tutti la pensano allo stesso modo. C'è ancora chi resta nostalgicamente e inesorabilmente ancorato all'idea che milioni e milioni di megapixel non potranno mai competere col fascino pur datato del triacetato di celluloide. Il conturbante potere degli alogenuri d'argento, le particelle che per prime subiscono l'alterazione chimica che dà vita alla cosiddetta immagine fotografica latente, sta proprio nella loro capacità di trasformarsi in argento metallico una volta esposti alla luce, assumendo una colorazione scura in proporzione della quantità di luce ricevuta. È a questo punto che l'immagine fotografica è finalmente visibile, anche se non ancora del tutto stabile. Una prematura esposizione alla luce, infatti, annerirebbe anche gli alogenuri non impressionati. È solo grazie al successivo fissaggio che si provvede a eliminare dall'emulsione i cristalli non impressionati e dunque instabili. Un procedimento, quello dello sviluppo fotografico, complesso, laborioso, delicato e proprio per queste ragioni estremamente affascinante. Il giorno seguente Maria Elena andò in giro a fare fotografie insieme a Cristina. Aveva un occhio formidabile, conosceva bene l'arte della fotografia e insegnò a Cristina molte cose sull'estetica e sulle sottigliezze dell'inquadratura. Le consigliò di sbarazzarsi della macchina digitale e di usarne una tradizionale. Le disse quanto fosse importante avere una camera oscura e si offrì di installarne una in cantina e di insegnarle le tecniche per sviluppare e stampare. Fotografarono di tutto, da cagnolini dall'aria scema a bambini imbronciati. Ma il soggetto migliore era Maria Elena stessa. Cristina e Maria Elena, interpretate rispettivamente da Scarlett Johansson e Penelope Cruz, sono le bellissime protagoniste di un recente film di Woody Allen dal titolo Vicky Cristina Barcelona. Non si tratta certo di una delle migliori prove del regista newyorkese dietro la macchina da presa, in tutta franchezza. Vicky Cristina Barcelona è un coacervo bello e buono di luoghi comuni sulla focosità e l'irruenza mediterranea, inframmezzati da considerazioni discutibili sull'assoluta necessità di scattare fotografie su pellicola, quasi si volesse sostenere che l'avvento della tecnologia digitale sia riuscito a rubare l'anima a un'arte ormai vecchia di due secoli. Una visione un po' naif, quella del recupero forzato della pellicola, che si scontra con l'inevitabile progresso tecnologico cui ogni cosa va incontro. D'altronde ormai un obiettivo fotografico è installato su qualsiasi telefono cellulare, compresi i meno evoluti. Per fare una bella fotografia non servono necessariamente vecchie Pentax e rullini costosi. Ed è proprio da questa considerazione che è nata una delle invenzioni più cool del momento. Credo che siamo stati davvero molto fortunati. Abbiamo avuto delle tempistiche perfette. La gente adora scattare fotografie e venire bene, piacersi in quelle fotografie. E se ti piaci non vuoi certo che quelle immagini restino relegate nella tua macchina fotografica o nel tuo telefono. Vuoi condividerle con tutti, no? Ecco, il punto è proprio questo. La voce che avete appena sentito è quella di un giovane, giovanissimo imprenditore salito da poco agli onori delle cronache mondiali per aver venduto insieme al suo inseparabile socio in affari la propria creazione alla Facebook Incorporated di Mark Zuckerberg. Il tutto alla considerevole cifra di 1 miliardo di dollari. La loro invenzione si chiama Instagram e loro due, i soci ormai multimilionari che l'hanno ideata, sono Kevin Systrom e Mike Krieger. Kevin Systrom e Mike Krieger. Kevin e Mike sono i due ragazzi poco più che trentenni che nelle ultime tre settimane hanno riempito le cronache di mezzo mondo, o almeno le pagine di mezzo mondo che si interessano di new media e nuove tecnologie. Tutto nella vicenda di Mike e Kevin ha origine in un luogo ben preciso, e non si tratta certamente di un luogo qualunque. Sono onorato di essere qui con voi oggi, nel giorno della vostra laurea presso una delle migliori università del mondo. Io non mi sono mai laureato. E a dir la verità, questa è l'occasione in cui mi sono di più avvicinato al conferimento di un titolo accademico. Stanford, 12 giugno 2005. Un uomo con dei piccoli occhiali tondi dalla montatura leggera, vestito con una toga, parla con tono pacato a una platea di studenti in adorazione. Lui è Steve Jobs, guru della Apple scomparso lo scorso autunno, lasciando un vuoto pressoché incolmabile nei cuori di molti tecnofili. Anche lui anni addietro è stato un frequentatore di edifici e aule molto simili a quelli, anche se a dire il vero non si è trattato di un frequentatore troppo assiduo. Lui non ha mai portato a termine il suo percorso di studi accademici. In quella primavera californiana di 7 anni fa, il non laureato Jobs parla ai neolaureati che stanno per ricevere il diploma. Il suo è un discorso fatto di speranza, visione, fede incrollabile nelle proprie capacità. Fui molto fortunato. Ho trovato cosa mi piacesse fare nella vita piuttosto in fretta. Io e Voz fondammo la Apple nel garage dei miei genitori quando avevo appena 20 anni. Abbiamo lavorato duro. E in 10 anni Apple è cresciuta, da noi due soli in un garage, sino ad una compagnia di $2 miliardi con oltre 4.000 dipendenti. Steve Jobs e Steve Wozniak negli anni 70 hanno fondato la Apple Computer Company contando solo sulle proprie forze. Le parole di Jobs in quel giorno di giugno risultano maestose negli ambienti della Leland Stanford Junior University, nota comunemente come Università di Stanford. È più che legittimo pensare che confusi tra il pubblico di neolaureati che assistono rapiti a quel discorso ormai entrato nella storia, non ci siano soltanto coloro che di lì a pochissimo abbandoneranno il campus per buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro. Ci sono tra loro anche svariati studenti ancora alle prese con esami e seminari, dispense e laboratori. Tra loro, con tutta probabilità, ci sono anche Kevin Systrom e Mike Krieger, giovani di belle speranze e acuto ingegno. Grazie mille per averci invitati qui a Stanford, di nuovo. È un vero piacere tornare qui. Mi ricordo quando una manciata di anni fa stavo seduto in queste stesse aule e guardavo la gente stare in piedi davanti a me, proprio come sto io adesso davanti a voi. E queste persone mi raccontavano della loro esperienza nel campo dell'imprenditoria e delle invenzioni. È piuttosto surreale pensare che ora ci sono io al loro posto. Questa è l'introduzione del discorso che Kevin Systrom, abituato fino a poco tempo prima a stare nell'uditorio anziché su un palcoscenico, ha tenuto un anno fa davanti agli studenti di Stanford. Stanford non è certo un'università qualunque. Systrom, proprio come fece Jobs nel 2005, tiene lì il suo discorso per un motivo ben preciso e non necessariamente legato al fatto di essere un ex studente. Stanford, infatti, è l'ateneo per eccellenza della cosiddetta Silicon Valley. E questo è il nome coniato nel 1971 dal giornalista Don C. Hoefler, che viene usato per indicare la parte meridionale della San Francisco Bay Area. La zona viene ribattezzata Silicon per la storica fortissima concentrazione di aziende legate alle tecnologie e in particolare ai semiconduttori, tutti prodotti basati sulla lavorazione del silicio. Stanford, una delle migliori università di tutta America, è il teatro della nascita di molte delle start-up più interessanti degli ultimi anni. Tra queste c'è anche quella di Instagram, l'app rivoluzionaria che consente di fare foto e condividerle all'istante con milioni di altri utenti in tutto il mondo. Rivoluzionaria, una parola grossa, eppure decisamente azzeccata. Le foto delle vacanze, dall'invenzione di Instagram in poi, non hanno più bisogno di lunghe serate di estenuanti proiezioni casalinghe per poter essere condivise con gli amici. Kevin Systrom e Mike Krieger, a partire dai corridoi e dalle aule di Stanford, fanno viaggiare i propri utenti in luoghi che forse non visiteranno mai di persona. Il tutto nel tempo di un click, di uno scroll. La storia del successo di questi due ragazzi, fiorita in California, nasce lontano da esse. Iniziamo a spostarci longitudinalmente verso la costa est degli Stati Uniti. E sono cresciuto in una piccola cittadina del Massachusetts che si chiama Holliston. È all'incirca 40 km da Boston. È proprio da Holliston che normalmente parte la maratona che si tiene a Boston ogni anno. Kevin Systrom nasce e cresce nel verde Massachusetts, ancora lontano dalla solata California dove un giorno avrà modo di provare le sue abilità. Già da bambino i genitori intuiscono il suo enorme potenziale. Per un ragazzino dall'ingegno così brillante è necessario un percorso scolastico fuori dal comune. I genitori di Kevin non badano certo a spese se si tratta dell'educazione di un figlio particolarmente dotato. Sono andato in una costosissima scuola privata, ma non perché i miei mi abbiano costretto, sia chiaro. Tutti mi rivolgono questa domanda. Sono stati i tuoi genitori a mandartici con la forza? Io mi sforzo di ricordare come sia andata all'epoca, ma non riesco a ricordare niente, perlomeno niente di traumatico a riguardo. Direi con buona approssimazione che l'abbiamo deciso di comune accordo. A me piaceva studiare e in quella scuola avrei potuto approfondire materie interessantissime che non avrei certamente affrontato altrove, come l'informatica, la scienza applicata ai computer. Mi sono divertito un sacco in quella scuola. Kevin è un ragazzino diverso dagli altri, per certi versi strano rispetto alla maggioranza dei suoi coetanei. Anziché amare gli sport e l'aria aperta, Kevin preferisce stare in casa a leggere o a giocare con il PC. Non tutti i bambini, oltretutto, hanno la fortuna di possederne uno nel 1994. Beh, ero veramente un nerd. Avrò avuto 10-12 anni quando in casa è comparso il primo computer. Ci passavo giornate intere. Giocavo tutto il giorno a Doom 2. È stata colpa di quel videogioco, in fondo, se sono diventato un appassionato di queste cose. Doom 2 è un videogioco appartenente alla categoria dei cosiddetti FPS, First Person Shooter, o sparatutto in prima persona. Nelle simulazioni di questo tipo, il protagonista affronta il nemico direttamente e il suo sguardo agli occhi di chi sta giocando è identico a quello di una soggettiva cinematografica. Un tipico gioco tanto appassionante e coinvolgente da non lasciare spazio ad altro. Nella vita di Kevin esistono solo la scuola e i giochi sul suo computer. Un vero e proprio nerd, per dirla con un'espressione diventata d'uso corrente anche da noi. Uno che non si stupisce di fronte alle meraviglie della natura, ma di fronte a quelle piuttosto dell'universo artificiale. Poi ad un certo punto in casa è entrato Prodigy. È così che mi sono avvicinato a internet per la prima volta. Comunque in quel periodo internet non era mica come adesso. Non c'erano le pagine web, né le applicazioni, tutto il resto a cui siamo ormai comodamente abituati. Prodigy altro non è che una delle prime compagnie di telecomunicazioni a realizzare un servizio via linea telefonica che offre a circa 1 milione di clienti statunitensi l'accesso a una vasta rete di servizi quali notiziari, meteo, posta elettronica, bacheche, acquisti online, quotazioni azionarie, servizi bancari, agenzie viaggi e giochi. Tutto corredato da un'interfaccia utente di tipo grafico. Molti dei servizi che oggi siamo abituati ad avere disponibili con il World Wide Web, insomma, erano già contenuti nell'esperimento riuscito di Prodigy. Un'esperienza prodigiosa, che è anche il primo contatto con un universo, quello della rete, che si rivelerà fondamentale nella futura esperienza di Systrom in qualità di programmatore. È stato alle scuole superiori che ho iniziato a fare programmazione, in senso stretto. Al liceo facevamo un sacco di ore di informatica, sostituivamo addirittura la biologia con l'informatica. Non credo di aver mai fatto un corso di biologia tutto intero, ecco. Ai miei insegnanti non interessava, per loro era più saggio che mi concentrassi sull'informatica. Quando ho fatto domanda a Stanford per chiedere di essere ammesso all'università, ho dovuto spiegare perché non avessi fatto un corso tradizionale di scienze. Gli esaminatori erano allibiti. Già dagli anni delle superiori, Kevin sente il richiamo irresistibile della Silicon Valley. Non solo per l'idea di frequentare un'università più vicina al luogo, che è la proiezione ideale e lo sbocco materiale dei suoi studi, ma anche per una questione puramente climatica. Una volta che mi sono stabilito sulla West Coast, è stato stupendo. Ero stufo del freddo, stufo della pioggia, stufo di tutto quello che c'era ad est. Ho fatto domande in vari posti e anche la Caltech era un'ottima opzione. Ma Stanford era la scelta perfetta. È stato grandioso quando ho saputo che mi avevano preso. Il prestigioso Ateneo di Stanford, situato a ridosso della città di Palo Alto, che nel corso degli anni ha visto sorgere gli uffici di aziende quali Google, Facebook, Logitech, Sun Microsystems e PayPal, è un coacervo di promesse e di opportunità per un giovane del calibro di Kevin. Nello spazio di pochi chilometri quadrati c'è la più alta concentrazione al mondo di compagnie tecnologiche, che hanno scelto di insediare i propri quartieri generali in un luogo dove il tasso di intelligenza e intraprendenza, oltre naturalmente al punteggio dei quozienti intellettivi della popolazione, è decisamente sopra la media. Ed è proprio qui, nei corridoi di un'università dove si respira aria di futuro, che Kevin incontrerà il compagno di studi perfetto per mettere a punto un'invenzione, un sogno, un'idea nuova che possa trasformarsi in una realtà di successo. Destini incrociati. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. Loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. Steve Jobs arringa così la folla di studenti che stanno per ricevere i diplomi di laurea a Stanford nel giugno del 2005. Seguire il proprio cuore e le proprie intuizioni, fare di testa propria ignorando sia i buoni consigli che le perplessità altrui, sono concetti talmente elementari da risultare perfino banali. Eppure ci sono due ragazzi, due giovani confusi tra la folla di laureandi, neolaureati e semplici studenti, che sapranno fare tesoro di quelle parole. Loro sono Kevin Systrom e Mike Krieger, i futuri inventori di Instagram, l'applicazione che consente di scattare splendide fotografie e condividerle immediatamente con milioni di altri utenti sparsi in giro per tutto il mondo. È proprio da lì, dalla gloriosa e laboriosa Università di Stanford, che inizia il sogno di due ragazzi apparentemente normali, che tanto ordinari in realtà non lo sono affatto. Io credo che Stanford sia uno dei posti migliori al mondo per incontrare ingegneri che siano anche persone dalla mente molto aperta. Lì è pieno di gente che è molto intelligente, ma non si chiude in se stessa, è capace di far ragionamenti sopraffini, ma anche di guidare con sicurezza e vocazione al comando un team di lavoro formato da diverse persone. Kevin Systrom ne è certo, Stanford è il posto giusto non solo per costruire il proprio bagaglio di conoscenze, ma anche per fare le conoscenze giuste. Il primo corso a cui mi sono iscritto a Stanford è stato quello di informatica, mi sembra quasi superfluo dirlo. È proprio in quella classe, tra i banchi di quel corso di informatica, che Kevin Systrom incontra il suo futuro socio Mike Krieger, un altro ragazzo dall'aria così normale, ma dall'ingegno decisamente speciale. Se la vicenda personale di Kevin Systrom è iniziata agli antipodi della California, sulla East Coast e precisamente nel verde e piovoso Massachusetts, anche quella di Mike Krieger inizia piuttosto lontano. Mike nasce infatti a San Paolo, in Brasile, dall'altra parte dell'America dal punto di vista della latitudine. Anche Mike, tuttavia, sente il richiamo irresistibile della Silicon Valley. Il Brasile è un paese meraviglioso, ma a metà degli anni zero non offre certo le grandiose opportunità tecnologiche che si possono trovare nella San Francisco Bay Area. La scelta di Mike ricade naturalmente su Stanford. È l'università più prestigiosa della zona, quella dove i talent scout tecnologici fanno a gara per accaparrarsi il futuro delle matricole. Per Mike lo studio è importantissimo, ma benché sia giovanissimo, possiede già una discreta dose di saggezza. A tutti piacerebbe imparare ad essere degli imprenditori di successo semplicemente grazie agli insegnamenti di un libro o grazie a qualche discorso come quello che sto facendo io ora. Ma non è così. Un giorno di lavoro effettivo vale come un anno di libri e di discorsi. Mike sa perfettamente che le materie che studia a Stanford sono fondamentali per la sua preparazione, ma sa altrettanto bene che quello che conterà davvero alla fine sarà la sua capacità di buttarsi, di credere nel proprio sogno, di lanciarsi in sfrenati tentativi sul campo piuttosto che sui banchi. L'idea che si possa diventare imprenditori grazie all'insegnamento di un libro, ai consigli di un blog o seguendo alla lettera un discorso pieno di ispirazione è un mito, un falso mito. L'esperienza diretta insegna a prendere decisioni migliori, anche se si possiedono meno conoscenze in linea teorica. Quello che conta nel campo dell'imprenditoria è iniziare a fare progetti da subito e imparare proprio da essi. Non si è mai pronti per diventare imprenditori, mai, ma è proprio questa la parte divertente. Kevin Systrom e Mike Krieger si conoscono dietro i banchi di scuola, anzi, dietro ai banchi del corso di informatica dell'Università di Stanford. È a partire da qui che iniziano a pensare di costruire qualcosa di nuovo, di inaspettato, qualcosa che ancora nessuno si sia sognato di progettare. Systrom, nel frattempo, macina stage e collaborazioni con le più grosse aziende del settore legato alle tecnologie e alle nuove forme di comunicazione. Lavora per Odeo, l'azienda da cui prenderà vita Twitter, e per Google. Facevo il manager a Google, Associate Product Marketing Manager. Questa era esattamente la mia qualifica. Mi occupavo di Gmail e di Google Reader, ma sempre da un punto di vista più di marketing che di sviluppo vero e proprio. Sapevo parlare dei prodotti, di come erano fatti, ma non li facevo io. Mi ero un po' spostato dall'ingegneria in sé alle strategie di vendita, ecco. Kevin, nato come un ingegnere, inizia a sentire nostalgia della programmazione vera e propria, dell'atto di creazione, dell'idea di mettere insieme qualcosa con le proprie mani e il proprio ingegno. Da Google passa a lavorare negli uffici di Next Stop, sito di viaggi dove torna con gioia a programmare e a smanettare, ovvero a sporcarsi le mani coi codici. È proprio a partire da questa esperienza che a Kevin viene voglia di buttarsi nel vuoto, di provare a lanciarsi senza paracadute nel mondo dell'imprenditoria. Non da solo, però. Appena ho trovato un minimo di soldi, un investitore che fosse disposto a darmi una chance per partire, ho tirato in mezzo Mike, che è diventato il mio cofondatore. Lui, oggi come oggi, è la spina dorsale della nostra azienda. Insieme Kevin e Mike fondano Burburn, applicazione in stile Foursquare, di cui è stata per qualche tempo la principale concorrente. Con Burburn ci si può taggare, ossia fare check in qualunque posto si voglia, e condividere impressioni, commenti, fotografie di quel luogo. Abbiamo inventato Burburn insieme, io e Mike. Ci abbiamo lavorato alacremente per 6-7 mesi. Poi abbiamo deciso di lasciar perdere e fondare Instagram. Eravamo già molto affascinati dall'idea del postare fotografie. Avevamo capito che alla gente piaceva. Era quella la cosa su cui dovevamo focalizzarci. E direi che ci è andata piuttosto bene. L'idea di Burburn non è abbastanza innovativa e i due soci non hanno nessuna intenzione di colare a picco insieme a lei. Intuiscono le potenzialità della condivisione di immagini tramite i social network e le sfruttano in pieno. L'ispirazione per l'estetica della loro nuova applicazione viene dalle vecchie Polaroid. Le caratteristiche principali e più riconoscibili di Instagram sono il formato quadrato anziché rettangolare, l'impronta anticata e vagamente vintage, la possibilità di applicare filtri e giochi di fuoco fuori fuoco in post-produzione traduzione. Eppure, miracolosamente, in maniera praticamente istantanea. Non serve armarsi di Photoshop per rendere bella un'immagine un po' storta, male illuminata o approssimativa. Ci pensano i filtri magici di Instagram. Quando ci siamo seduti a progettare passo per passo la nostra creatura, ci siamo immediatamente rivolti col pensiero a Facebook e Twitter. Quello che esaltava me e il mio cofondatore Kevin era l'idea di poter fare un'esperienza simile ad un viaggio intorno al mondo, ma grazie unicamente alle fotografie. Non importa chi tu sia, né dove tu sia in quel momento. Fai una foto e la condividi con chi ti segue. Il modello di Instagram come social è più vicino a Twitter che a Facebook. Non bisogna per forza essere amici per vedere le immagini di qualcun altro. Basta seguirlo, anche senza sapere chi sia. Una serie di elementi preesistenti vengono rimescolati in maniera innovativa e geniale da Kevin e Mike. Con questa formidabile ricetta, il successo di Instagram sembra essere assicurato. Non c'è bisogno di una lingua comune su Instagram, si parla per immagini. Le immagini sono un linguaggio universale. Puoi parlare con un giapponese utilizzando un tipo di comunicazione non verbale, ecco. Instagram ci dimostra ancora una volta che parlare per immagini può essere assai più efficace che farlo attraverso le parole. Destini incrociati. Destini incrociati ha da poco lasciato l'Università di Stanford, luogo magico della Silicon Valley, dove due giovani fervidi ingegni si sono incontrati e uniti per costruire una fortuna. Loro sono Kevin Systrom e Mike Krieger, e la loro creatura da $1 miliardo si chiama Instagram. Krieger ci parla della sua esperienza di imprenditore. Ci è capitato di raccontare la nostra esperienza di fronte a ragazzi come noi, o meglio, come noi prima di diventare degli imprenditori di successo. Se le nostre conferenze duravano dalle 9 del mattino alle 9 di sera, alcuni arrivavano alle 8 e andavano via alle 10, altri arrivavano stiracchiandosi alle 10 e se ne andavano sbadigliando alle 6. Avete già capito dove voglio arrivare. Alcuni di questi ragazzi non diventeranno imprenditori di successo. Krieger sottolinea la fatica di gettarsi a capofitto in un'impresa grandiosa. Non basta avere un sogno, bisogna coltivarlo con pazienza e dedizione incrollabili. Non puoi autodefinirti un imprenditore, deve essere qualcun altro a farlo. La definizione di entrepreneur, così come la si trova sui vocabolari inglesi, recita grosso modo proprietario o manager di un'impresa che fa profitti grazie all'iniziativa personale e prendendosi dei forti rischi. Che non risica, non rosica, verrebbe da dire. Sono stati momenti difficili, quelli del passaggio da Bear Burn a Instagram, quelli in cui maturavamo la decisione che Bear Burn non aveva davvero un futuro. Intanto Mike aspettava un visto ufficiale per gli Stati Uniti, sai, lui è brasiliano. Io ho passato un paio di mesi ad aspettare e a riflettere. Il giorno in cui lui finalmente è rientrato in California ci siamo seduti a un tavolo e io gli ho detto: senti, credo che dobbiamo metterci a fare qualcosa che c'entri con le foto. Lui ha fatto una faccia indescrivibile, ma che diceva a grandi linee: ho mollato il mio lavoro, mi sono buttato a capofitto con te in questa cosa di Bear Burn e ora ci mettiamo a fare qualcos'altro. Mike è perplesso, ma Kevin invece non ha dubbi. Ero andato in vacanza con la mia ragazza in Messico, un breve viaggio giusto per schiarirmi le idee. Lei mi fece notare che le foto che facevamo non venivano mai bene, mai come lei voleva che fossero. Si sa che le ragazze non si piacciono mai in foto, a volte è una specie di adorabile capriccio. Però aveva ragione, a quelle foto mancava sempre qualcosa. Ho capito che era su quello che dovevamo lavorare, non avevo più dubbi. La prima cosa che Kevin fa, appena torna a casa dal suo breve viaggio, è costruire insieme a Mike quello che diventerà il primo filtro di Instagram. È stata la svolta. Quel filtro era la promessa che chiunque poteva riuscire a fare delle belle foto. Awkward rhymes. You always say your name. E se Instagram, un'applicazione scaricabile gratuitamente da un telefono, arrivasse addirittura a sostituire le macchine fotografiche? Suona come una provocazione, o forse no? Alla fine è successo che si è arrivati a un paradosso. Le foto che facciamo con le normali macchine fotografiche ci fanno schifo. O meglio, non è che siano brutte, è solo che non ispirano niente. Instagram invece ispira e come. I suoi numeri sono impressionanti. Dal lancio nell'autunno del 2010, il numero degli utenti è cresciuto in maniera esponenziale. 10.000 in poche ore e 200.000 nella prima settimana. Ora Instagram ha toccato la punta di 30 milioni di utenti, che uploadano 5 milioni di foto ogni giorno. Non è difficile immaginare che la cosa abbia attirato l'attenzione di un altro giovane imprenditore, uno a cui il fiuto per i social network non manca di certo. Signor Zuckerberg, ho la sua piena attenzione. No. Non crede che io la meriti? Cosa? Non crede che io meriti la sua piena attenzione? Ho dovuto giurare prima di questa deposizione e io non giuro il falso, quindi ho l'obbligo legale di rispondere no. Ok, no. Lei crede che non meriti la sua attenzione? Io credo che se i suoi clienti vogliono sedersi sulle mie spalle per dichiararsi alti, hanno il diritto di provarci, ma io non sono obbligato a divertirmi ascoltando tutte queste bugie. Lei ha una parte della mia attenzione, il quantitativo minimo. Il resto della mia attenzione è rivolto ai miei uffici di Facebook, dove io e i miei colleghi facciamo cose che nessuno in questa stanza, inclusi e soprattutto i suoi clienti, è intellettualmente e creativamente capace di fare. È una risposta adeguata alla sua sussiegosa domanda? Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, il mese scorso ha comprato Instagram per $1 miliardo. Beh, ad essere sinceri siamo un po' contrariati. Avevamo chiesto 2 miliardi e ce ne hanno dato uno. Kevin e Mike ridono di gusto. $1 miliardo a due ragazzi di poco meno di 30 anni. Non male come start-up.